La scienza moderna fa la sua comparsa nel 1600 con Bacone, Galileo, Cartesio, per i quali non bisogna più procedere come i greci che si limitavano a contemplare la natura nel tentativo di comprendere le leggi, ma bisogna imparare a dominare la natura. E bisogna interrogarla come fa un giudice con un imputato. Quindi bisogna formulare delle ipotesi e interrogare la natura, verificare che le ipotesi sono corrette o non corrette e procedere quindi nella conoscenza come un giudice appunto fa in un processo con un imputato. Galimberti sostiene che è attraverso la tecnoscienza che l'uomo appunto che l'uomo conquista il potere sul mondo, e quindi questo è interessante, l'umanesimo nasce con la scienza, perché è la scienza che gli dà il potere sul mondo. È il metodo scientifico che fa dell'uomo colui che appunto domina la terra e può leggere la natura e organizzarla secondo i propri scopi. Certo, si può distinguere tra scienza e tecnica apparentemente, ma in realtà la tecnica è l'essenza stessa della scienza, perché la scienza non guarda il mondo per contemplarlo, ma per manipolarlo, per trasformarlo. C'è sempre un'intenzione tecnica. Quindi lo sguardo scientifico possiede da subito un'intenzione tecnica che lo caratterizza, lo qualifica, lo indirizza verso la manipolazione della realtà. È come se in un bosco appunto si recasse un poeta e un falegname, i due non vedono la stessa cosa, ecco, osservando gli alberi, perché il falegname vede già dei mobili da costruire. Poi qui c'è un'osservazione di Galimberti molto interessante, dice la scienza, ma anche curiosa, la scienza è figlia della teologia medievale, cioè, siamo spesso propensi a pensare che teologia e scienza siano due cose completamente diverse, beh no, ci sono dei presupposti comuni. La teologia medievale, infatti, a differenza della visione greca, vede il tempo diviso in tre settori, passato, presente e futuro. Il passato è il male, perché c'è il peccato originale, il presente è il riscatto, la redenzione avvenuta con Cristo per tramite le opere buone degli uomini, e il futuro è la salvezza. Bene, questa visione triadica del tempo, passato è il male, presente è ciò che si fa per ottenere un futuro migliore, è condiviso dalla scienza. Il passato è il male perché è ignoranza, il presente per la scienza è la ricerca e il futuro è il progresso. Questa visione è già presente in Bacone, che appunto parla della scienza come mezzo per redimere l'uomo. Redimere da cosa? Dal peccato originale, dalle conseguenze del peccato originale. Dice, per riportare l'uomo sul paradiso terrestre, dal punto di vista religioso e spirituale, ci penserà appunto alle pratiche della religione, ma per riportarlo dal punto di vista della materia è la scienza che ci deve pensare. Quindi le conseguenze del peccato originale, che sono il dolore, partirai nel dolore, e il lavoro, guadagnerai pane col sudore della fronte, e beh, la scienza o la tecnoscienza è in grado di mitigare il dolore del parto, il dolore dell'essere umano in generale e anche la fatica. Nel libro di Galimberti, non solo in questo, ma anche nel libro Technik Psyche, si parla appunto di come la tecnoscienza trasforma completamente la mentalità dell'uomo e, oltretutto, contribuisce al capovolgimento dei mezzi con i fini. Allora, normalmente siamo ingenuamente tentati di credere che la tecnica è un mezzo, la scienza è un mezzo, lo scopo è il benessere umano. Ebbene, non è mica così. Ecco, in realtà, come dicevo all'inizio di questa breve conversazione, questo in realtà monologo per il momento, la tecnica sembra un mezzo, ma in realtà poi crea degli apparati, delle condizioni nelle cui l'essere umano si trova a vivere. Cioè, la televisione è un mezzo, serve per guardare cose che ci sono in altre parti del mondo, può essere Sì, ma in realtà poi la televisione ci condiziona la nostra mentalità, condiziona la nostra vita, cambia i nostri costumi. Va bene. Per analizzare questo coinvolgimento mezzi fini, all'invertico, un filosofo si rifà a Hegel e a due proposizioni di Hegel molto interessanti. Cioè, la prima è che in conseguenza della rivoluzione industriale, e in conseguenza quindi dello sviluppo della scienza, in futuro i beni non saranno più, la ricchezza non sarà più determinata dai beni in sé, le case, i campi, le ricchezze di qualunque tipo, ma dagli strumenti per produrre, dagli strumenti di produzione. Perché se chi possiede gli strumenti di produzione può produrre ricchezza in grande quantità. Quindi chi è veramente ricco è colui che possiede i mezzi di produzione. Solo 40 anni prima Adam Smith invece, parlando della ricchezza delle nazioni, parlava dei beni che le nazioni hanno. Bene. Seconda affermazione di Hegel è questa, che un fenomeno cresce, quando cresce da un punto di vista quantitativo, ad un certo punto, oltre una certa massa critica, si ha una trasformazione qualitativa, per cui si ha una variazione qualitativa radicale. Ebbene, Hegel parla di un esempio famoso, cioè se un uomo si strappa un capello, due capelli, tre capelli, va bene, c'è una variazione quantitativa, però se li strappa tutti, li toglie tutti, li taglia tutti, alla fine è calvo, quindi c'è una variazione totale. Marx cosa fa? Prende questo teorema di Hegel e lo applica all'economia. Allora il denaro sembra essere un mezzo, uno strumento, grazie al denaro posso comprare dei beni, posso comprare anche dei mezzi di produzione. Perché cosa succede? Quando la quantità di denaro che comincia a circolare e come si comincia a investire cresce, che cosa accade? Che il denaro diventa la condizione di tutto per poter ottenere qualunque cosa. Non solo beni materiali, mezzi di produzione, ma anche qualunque scopo nella propria vita. Se vuoi essere libero, devi possedere sufficiente denaro da non dover fare lo schiavo salariato. Quindi il mezzo, quello che prima era un mezzo, diventa un fine, anzi il fine primario di tutto, perché senza quello non puoi realizzare praticamente nessun altro fine. Emanuele Severino, filosofo ben noto, applica lo stesso teorema alla tecnica e dice: beh, siccome la tecnica è il mezzo per realizzare i nostri scopi, ecco che diventa non più un mezzo, ma un fine primario. Perché senza la tecnica non si possono raggiungere i nostri fini non possono essere ottenuti. Poi c'è un altro paragrafo molto importante su come la politica cambia in conseguenza della tecnica. È un tema che noi abbiamo trattato varie volte quando parliamo del mondo alla rovescia. Il mondo alla rovescia, perché in un mondo sensato l'uomo dovrebbe essere al primo posto, il benessere dell'uomo dovrebbe essere al primo posto, poi tutto il resto dovrebbe essere al servizio dell'uomo, no, no, l'uomo dovrebbe essere al centro, trattato come fine, mai come mezzo, come diceva Kant. E quindi che cosa significa? Che allora l'economia doveva essere al servizio dell'uomo, per il benessere di tutti gli uomini. E la finanza, il credito finanziario, deve essere al servizio dell'economia. E la scienza? Beh, la scienza deve servire un'economia che aiuta l'uomo. Ad esempio, una scienza che producesse prodotti ecologici, ecologicamente sostenibili, che riducesse l'inquinamento e così via, sarebbe al servizio dell'economia, ma sarebbe poi un'economia che sarebbe al servizio dell'uomo. E una finanza che intervenisse a sostenere una simile scelta tecnologica e scientifica che sostiene un'economia, bene, quella sarebbe al servizio dell'uomo e quindi sarebbe umanistica. Le cose non stanno così. Oggi il mondo è alla rovescia perché a dominare il mondo è la finanza, cioè il credito. Chi dispone di mezzi finanziari può dirigere la propria economia in una direzione o un'altra, non solo, ma può dirigere anche la ricerca. E quindi sviluppare la scienza. E la politica? E la politica viene dopo, cioè la politica è al servizio dell'economia. È chiaro che una casa come la BMW può sempre, diciamo, andare al governo tedesco e dire: se non mi dai le cose che chiedo, io trasferisco i miei stabilimenti, e quindi la Germania perderà 100.000 posti di lavoro, non se lo può permettere, quindi l'economia influisce in modo potentissimo sulla politica. Ok, andiamo a 2500 anni fa, a quando si è cominciato a parlare di politica in termini più attuali. Facciamoci a Platone. Prima di Platone non c'era politica, c'era la tirannide. Platone dedica molto spazio nei suoi dialoghi alla politica, pensiamo alla Repubblica, insomma. Bene, la politica è il luogo di decisione. E Platone dice che la politica è basiliche techne, cioè la tecnica base, la tecnica regia. Perché la tecnica regia? Perché è compito della politica, che è capace, abile in questo, di assegnare le finalità alle altre tecniche, alle altre procedure, all'agricoltura, alla tecnica militare e così via. Quindi la politica è il luogo delle decisioni, è quindi la tecnica regia, la tecnica senza la quale tutte le altre tecniche non funzionano. Perché non funzionano? Perché sono senza scopo, cioè non hanno dentro di sé se non lo scopo di ampliare il proprio potere. Se lasciamo le decisioni militari, dopo un po' tutte le risorse di uno Stato finiscono in armamenti. Se lo lasciamo agli agricoltori, dopo un po' tutte le finanze di uno Stato servono per finanziare una crescita infinita dell'agricoltura. È la politica che decide le finalità in base a un dialogo e all'incontro tra diversi portatori di interessi e di visioni del mondo. Bene, oggi la politica non ha più questo, come abbiamo per i discorsi che abbiamo appena fatto, non ha più questo potere. La politica ormai è serva dell'economia e della finanza. E c'è anche un'altra ragione, oltre a quelle dette prima, è che la tecnica tende a generare un mondo sempre più complesso, sempre più complicato, in cui soltanto i tecnici capiscono qualcosa. Se pensate all'economia, alla finanza, se vuoi entrare in quei mondi lì e poterci ragionare sopra, devi avere una notevole competenza. E quindi cosa significa? Che noi veniamo chiamati come elettori a decidere su cose di cui non capiamo ben poco. Si pensi che addirittura, e questa è una conseguenza della tecnica dell'iperspecializzazione, si pensi ad esempio che nell'ambito della fisica esistono delle riviste divulgative, ma non rivolte al pubblico, rivolte ai fisici, perché i fisici che si occupano della particella A magari non riescono a capire il linguaggio dei fisici che si occupano della particella B, e quindi c'è bisogno di una rivista che consenta questo dialogo tra fisici. Figuriamoci noi che abbiamo una competenza comune, che cosa ci possiamo capire. Quindi in questo senso l'esplosione della tecnica e della specializzazione toglie all'essere umano normale, per il quale la tecnica dovrebbe essere al servizio, il potere di decisione, perché non puoi decidere se non capisci. E questo significa che la democrazia nella quale crediamo di abitare, in realtà è falsa. Che non è democrazia, quella in cui le nostre non siamo in grado di decidere perché non capiamo cosa sta succedendo.